figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento con il sociale. Domani, 1 marzo, sarà una giornata particolare, 24 ore senza di noi. Così è stata battezzata l'iniziativa dello sciopero degli immigrati. Il primo di questo genere in Italia, mentre iniziative di questo tipo ci sono già state in altri paesi europei come la Francia, la Spagna e la Grecia. Una giornata quindi di sciopero per gli stranieri che lavorano nelle fabbriche, nelle cooperative, nei cantieri, ma anche appunto nelle nostre case come badanti o colf. Non uno sciopero convenzionale e infatti non ha il patrocinio, per così dire, dei sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, ma uno sciopero spontaneo nato dalla rete, in particolare da Facebook. Un nastro giallo sarà il simbolo di riconoscimento che colorerà tutte le piazze d'Italia, oltre 50, che ospiteranno chi manifesta. Chi invece deciderà di andare a lavorare perché non vuole lasciare senza assistenza, il caso ad esempio delle badanti e delle babysitter, le persone che assiste, oppure anche perché molto meno poeticamente deve portare a casa uno stipendio, potrà indossare un nastro giallo o metterlo fuori dalla porta di casa per far capire che avrebbe voluto aderire. Perché scioperano gli immigrati? Per far capire il loro peso specifico, che sono importanti per l'economia dei paesi che li ospitano. Ma in realtà, quanti di loro veramente parteciperanno? Lo abbiamo chiesto ad alcuni immigrati che in questi anni abbiamo conosciuto. Margherita è una colf polacca. No, non lo sapevo. Probabilmente qualcuno scontento lo fa, io scontenta non sono. Bisogna pure vedere un pochino dall'altro lato. La stessa cosa se italiani vanno in Germania e fanno sciopero, che dicono che in Germania si ferma perché gli italiani non lavorano. Non lo so, ma ci sono, perché io mi scontro anche, per esempio le donne italiane ci rimproveravano, che dicono voi andate a pulire le case, rubate lavoro alle italiane, però io non ho dato mai tanto peso a queste cose, perché lo so che ci sono donne che vogliono lavorare e lavorano e fanno lo stesso lavoro mio, no? Se qualcuno di principio non lo vuole fare, non lo farà, o ci sono stranieri o non ci sono stranieri. Ne fa una questione invece di tipo, di comunità, Marco, che è un cinese di seconda generazione ed è un giovane imprenditore. No, non aderirò perché ritengo che l'intento è sicuramente bello e condivisibile, solo che diciamo, è stata studiata tutta l'iniziativa con delle modalità che poco si adattano alle caratteristiche della comunità cinese, che è composta per lo più da imprenditori e aspiranti imprenditori, e quindi e poi soprattutto la maggior parte dei lavoratori lavora per aziende cinesi, magari con clienti cinesi, e quindi sarebbe un qualche cosa che fa nella maggior parte dei casi solo danno, cioè andrebbe a impattare solamente verso cinesi che sanno perfettamente qual è il ruolo degli immigrati nella società italiana. Aderirà invece Ciprian, che è rumeno ed è un mediatore culturale. Sì, aderisco. Vabbè che di regola comunque quel lunedì prossimo non ho impegni lavorativi, per cui insomma, però aderisco comunque e vedo un po' che idee ci sono e come realizzarlo. E ora parliamo di un singolare esperimento di integrazione. Avviene a Monticello Pavese e ci racconta tutto Paolo Piacenza. Metti un pomeriggio d'inverno all'ora del caffè. Metti una cascina nella bassa lombarda, un tiro di schioppo dal Po. Metti una tavolata numerosa in un venerdì pieno di cose da fare. Il lavoro dei grandi, la scuola, dei piccoli, i mille impegni di ogni giorno. Siamo a Monticelli Pavese, 660 anime, nebbia e campi. Intorno a quella tavolata, in quella cascina irta di ponteggi per la ristrutturazione in corso, ci sono due famiglie. Una è di religione cattolica, l'altra è di religione musulmana. Allora, cucchiaio, lo stesso posto. Ma tu devi sapere che prima del caffè non si può niente qua. Intorno al tavolo ci sono Beppe Casolo e sua moglie Margherita Valentini. C'è anche Fatima e Dabi. Mustafa Anish, suo marito, manca invece. Lavora a Milano, arriverà in serata. Beppe e Margherita hanno 3 figli, Francesca di 25 anni, Pietro di 11 e Marta di 6. Anche Mustafa e Fatima hanno 3 figli, Ismail 10 anni, Amina 4 e Ahmed Nur 5 mesi. Vengono tutti da Milano. Un anno fa hanno raccolto la sfida lanciata dalla cooperativa sociale Comin, che da 35 anni si occupa di affido con comunità alloggio e comunità familiari. La cooperativa Comin ha lanciato ora un progetto nuovo, condiviso dalla Curia Ambrosiana e dalla Casa della Cultura Islamica di Via Padova, dai francescani e dalla confraternita Sufi. Elsa Daga è la responsabile del progetto. Poter offrire a dei bambini in difficoltà una situazione nella quale possano avere un'accoglienza in un ambito familiare, in un luogo, in una famiglia vera e propria, con dei supporti educativi professionali. Questo è uno degli obiettivi principali anche di questa comunità che si è creata, di questa comunità di famiglie, nella quale l'altro elemento forte poi è stato quello della interculturalità, multiculturalità. Alla fine dell'anno scolastico arriveranno i primi bimbi in affido, 2 per ciascun nucleo familiare, e poco dopo altre 2 famiglie, italiane o magrebine, si aggiungeranno alla comunità. Con loro ci sarà un educatore che li aiuterà in questo percorso. Il nome scelto per questa impresa è significativo: l'albero della Macedonia, un albero solo che dà frutti diversi, destinati a diventare, insieme, ancora più buoni. Intanto fuori, la cascina cresce, mattone dopo mattone, in una ristrutturazione che punta a creare anche uno spazio di dialogo che sia aperto al territorio, agli abitanti di Monticelli come a chi arriva da più lontano. La decisione di imbarcarsi in un'impresa del genere può sembrare una scelta per pochi. Margherita spiega che per lei e Beppe è stata soprattutto una scelta che corrispondeva all'idea di famiglia coltivata insieme. Come dice Ghibra, i tuoi figli non sono figli tuoi, sono frecce di un arco, eccetera, eccetera, no? E riteniamo che sia proprio così. Sono valori che abbiamo sempre respirato in famiglia, sui quali ci siamo confrontati, e poi ad un certo punto abbiamo fatto un percorso della Comin specifico sull'affido familiare e ci siamo inseriti in una rete di famiglie per l'affido. Alla fine hanno scelto di accettare la proposta di una forma di affido nuovo, che offriva anche l'opportunità di vivere e affermare alcuni valori. In questo momento storico le relazioni, per esempio, tra persone di etnie, origini, religioni diverse sono viste sotto la prospettiva della paura, del pericolo, della difficoltà. Questa è una cosa che noi non condividiamo e quindi desideriamo agire, lavorare per il cambiamento. Beppe sottolinea che la scelta fatta ha permesso loro di toccare con mano una verità trascurata. Una famiglia che arriva dal Maghreb aiuta l'Italia, è una risorsa, è qualcuno che accoglie e risolve delle situazioni. Per cui ci accorgiamo che si dà testimonianza di questo, che si riesce a lavorare molto bene assieme, che ci si arricchisce, che figli crescono con una mentalità diversa. Come spesso succede, il cemento dell'impresa è la relazione. In questo caso molto ha pesato il rapporto speciale che si è creato da subito tra Fatima e Margherita, fin dal primo incontro, dice Fatima. Eravamo, non so, 20-25 persone, entra la Margherita e io, cioè, una cosa che ho sentito, l'ho guardata, ho detto: questa signora sarà con me in questo progetto. Fatima spiega che per lei e Mustafa la scelta di impegnarsi nel sociale è stata una rivelazione. Potrei anche dire che finalmente ho trovato il mio mondo, quello che cercavo da quando sono arrivata in Italia. Fatima, che è in Italia da 15 anni, dice che per la prima volta negli ultimi tempi si è sentita straniera. So, c'è qualche virus per aria che me lo fa sentire. Un figlio che è nato qui a 11 anni comincia a dire: ma alla fine io sono l'italiano o sono un marocchino? Lui in fondo, anche sentendo, anche basta accendere la televisione, si riscontrano altre verità. Quando si parla di questo straniero è diventato, non so, un tabù, una vergogna. Cioè, ma noi diamo, noi facciamo delle belle cose, ma l'Italia non si accorge di quello che stiamo facendo. L'avventura insieme ha anche le sue difficoltà, naturalmente, ma si affrontano appunto insieme. E piano piano si costruisce qualcosa di importante. Quando però si chiede a Margherita se vogliono affermare un modello, lei risponde così. Penso che non ci sia bisogno di entrare in comunità a Monticelli, Pavese, in fondo alla Lombardia per ricreare una situazione positiva. Basterebbe parlarsi tra vicini di casa. L'ultima parola, quella decisiva forse, la dice il piccolo Ismail quando gli si chiede che cosa è cambiato da quando era a Milano. È cambiato lo spazio, sono cambiate le regole. Sono regole decenti. Prima di chiudere parliamo di un altro argomento. A Roma per i disabili sarà d'ora in poi più facile usare il taxi. Sentiamo perché dal presidente Unione Taxi Italiani e del servizio 3570 Lorenzo Bittarelli. Il progetto si chiama 3570 Mobilità Accessibile. È nato con l'obiettivo di realizzare, di introdurre entro l'anno 2010 a Roma, nella capitale, una prima flotta di 50 taxi in grado di trasportare tutte quelle persone diversamente abili che potrebbero avere problemi nell'utilizzo del servizio taxi in piena autonomia. Questo progetto è patrocinato dal Comune di Roma, è stato realizzato dal 3570 grazie alla collaborazione di Anglat, che è un'associazione di persone disabili, dalla Fondazione Alessandra Bisceglia Valle Ollus, di Ford, che fornisce autoveicoli, e di Treclo Driver, che sono coloro che allestiscono i taxi. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo utilizzato un autoveicolo Ford Tourneo, che è completo di tutti gli accessori di sicurezza all'avanguardia, diciamo, sul mercato, per garantire proprio la mobilità in completa sicurezza, fattore questo significativo e determinante per il trasporto delle persone disabili. Quando partirà? L'iniziativa è stata già presentata martedì scorso, abbiamo già realizzato un primo prototipo di auto e chiaramente adesso auspichiamo, data la forte valenza sociale dell'iniziativa, anzi riteniamo indispensabile, più che auspichiamo, che vengano previsti dei fondi comunali, regionali e anche degli sgravi statali per favorire l'eventuale acquisto di queste vetture da parte dei tassisti, perché purtroppo è una macchina che viene a costare, quando è finita l'allestita, circa 35.000 euro, lo capisce? Quindi è un ostacolo enorme per il tassista, però se ci abbiamo un supporto da parte delle istituzioni, noi come 3570, ma anche come URI, cercheremo di favorire e di supportare i nostri soci in questo iter, che ha come traguardo quello di dare a chiunque la possibilità di usufruire del servizio taxi senza alcuna limitazione. Ma finora come facevano i disabili a prendere il taxi? Mille problemi, perché erano costretti ad arrangiarsi chiamando un taxi normale, a volte c'erano dei problemi che la carrozzina non entra nel baule, a volte ci sono dei problemi che la macchina è troppo alta e quindi è difficile in qualche maniera spostarsi dalla carrozzella sul sedile dell'auto, è una cosa un po' antipatica, ecco, e queste persone non potevano muoversi liberamente, erano costrette comunque sempre a farsi accompagnare da qualcuno. Da domani invece, grazie al nostro progetto, su Roma potranno muoversi liberamente senza aver bisogno dell'accompagno, perché potranno salire e scendere con la massima sicurezza e con la massima semplicità. Quindi riguarda soltanto Roma per ora? Allora, questo di Roma è un progetto pilota, perché secondo me la novità non è tanto quella di aver realizzato un taxi idoneo al trasporto delle carrozzelle, ma è proprio nell'introduzione di una flotta organizzata dalla centrale radio taxi, con tanto di GPS che è in grado di conoscere la posizione di tutte e la disponibilità quindi di tutti i mezzi, e di organizzarli in una maniera più efficiente. Qui a Roma esisteva un taxi allestito, però senza la centrale radio, e comunque un taxi solo è praticamente come se il servizio di fatto non esistesse. Invece, con una vera e propria flotta, siamo sicuri noi di poter dare le risposte a tutti coloro che ne avranno bisogno, iniziando da 50 macchine, ma auspicando con interventi da parte delle istituzioni che possano favorire la scelta da parte dei tassisti, che possano diventare molte di più. Sperando che si estenda anche ad altre città. Sicuramente dovrebbe essere replicato, poi auspichiamo anzi che venga replicato, e faremo il possibile, ma ciò dipenderà anche dagli incentivi, su tutte le altre città d'Italia che fanno parte di URI, dell'Unione dei Radiotaxi. E questa puntata termina qui, vi do appuntamento a domenica prossima 14:15, sempre sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto.